Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Chiedo scusa per il ritardo, ma come alcuni di voi già sanno, è stata avvertita una scossa di terremoto poco fa a Milano e adesso l'agenzia la riportano e abbiamo avuto dei momenti di verifica anche di quello che stesse accadendo. Comunque, la scossa avvertita appunto dalla popolazione alle 16.59, come adesso riporta l'agenzia, tra il 3.8 e 4.3 di magnitudo, e anche i piani bassi delle case, devo dire la verità, si è avvertita anche qui in maniera molto chiara. Ma al di là di questo, su cui spero ovviamente di non dover dare più nessun aggiornamento, e qui parte il primo gesto scaramantico, andiamo con le notizie di oggi. Ci occuperemo di scuola, mentre attendiamo di sapere, se ho ben capito, in serata, l'elemento definitivo dell'impianto di maggiori restrizioni che varerà il governo, e quindi le zone rosse, da quello che si è capito, nei giorni festivi e prefestivi anche, quindi allungando le zone rosse, probabilmente 28, 29, 30 invece sarà possibile la mobilità intraregionale, ma aspettiamo il decreto. E mentre il Veneto è andato avanti, per quindi Zaia, anche in seguito al numero di casi che in Veneto sono cresciuti moltissimo, più di tutta la media nazionale, Zaia ha detto che bloccherà i movimenti tra comuni dopo le 14, dal 19 dicembre fino al 6 gennaio, quindi una zona rossa, diciamo, o una zona arancione rafforzata. Perché? Perché vuol dire che tu ti puoi muovere solo dentro il comune dopo le 14 dal 19. È una zona in realtà gialla rafforzata, perché la zona arancione prevede che tu possa muovere sempre solo dentro i confini comunali in qualunque orario del giorno. Invece in questo caso, se ho ben capito, lo spostamento sarà da zona gialla fino alle 14, e poi dopo le 14 si sta nel comune di residenza, per un periodo lungo comunque, perché dal 19 dicembre fino al 6 gennaio. E di questo parleremo, insomma, soprattutto daremo gli aggiornamenti. Però resta il tema della scuola. Oggi sono occupato anche solo 24 ore, resta il tema della scuola, perché ormai, insomma, la riapertura del DPCM del 3 dicembre è fissata al 7 gennaio, con una didattica in presenza garantita per il 75% degli studenti, allo stesso tempo il limite del 50% della portata dei mezzi di trasporto pubblico. È chiaro che il governo valuterà se confermare il rientro in classe subito dopo le festività. Ci sono 2 milioni di studenti delle superiori che sono a casa, a cui si aggiungono i 5 milioni di studenti del primo ciclo che sono a scuola, ma seppure da regione a regione, perché sappiamo che se sei rossa garantisci solo fino alla prima media superiore, se invece sei arancione anche la seconda e la terza media, invece sulle gialle c'è comunque la chiusura delle superiori anche nelle gialle. Il problema è capire, va bene il 75%, si può anche arrivare al 50%, lo dico, ne parleremo fra poco, basta che vi sia un po' di alternanza. Io continuo ad avere un pragmatismo su questo, piuttosto che niente, come dicono in Lombardia, meglio piuttosto. Se non si riesce ad arrivare al 75%, che si arrivi al 50%, ma tra un'intera generazione che vive e passa le giornate in casa con la didattica a distanza, quando funziona, quando non funziona, e che comunque non garantisce lo stesso tipo di apprendimento, diciamocela tutta, dai, rispetto alla didattica in presenza, ecco, tra passare il 100% delle tue giornate in stanza davanti al tablet, o fare metà e metà, meglio metà e metà, anche se non si riesce ad arrivare al 75%. Il problema è appunto, ci sono anche dei problemi di carattere sindacale. I sindacati sono contrari, anche molti docenti, a lavorare il pomeriggio, però io chiedo a tutti di usare un po' di fantasia sui luoghi, sugli spazi, sull'organizzazione. È chiaro che le scuole devono ripartire scaglionando gli orari di ingresso e e di uscita. Oggi è intervenuto su questo anche il ministro Azzolina, per quello che riguarda ha partecipato al Natale digitale del ministero, ha detto che ci sono 1,5 miliardi per edilizia scolastica. Di questo parleremo. Certo che io non ho capito, e voglio essere buono, che cosa si sia fatto a livello nazionale e anche a livello locale, quindi regionale e comunale, sul fronte dei trasporti, soprattutto nelle grandi città, perché è lì, è chiaro che hai il maggior rischio di congestione, no? Negli studenti delle superiori, che spesso, proprio anche per il tipo di istituto, non hanno una prossimità come hanno gli studenti delle elementari o delle medie inferiori, che magari vanno a scuola, soprattutto quelli delle elementari, in un'area vicina a casa, quindi possono arrivare a piedi, possono arrivare accompagnati chiaramente, possono arrivare utilizzando i mezzi propri. Nel mondo delle scuole medie inferiori, soprattutto medie superiori, aumenta la distanza, perché magari hai scelto un istituto che non è esattamente vicino, o non è neanche nel tuo comune, è all'interno della provincia. Quindi resto un po' basito non aver letto nulla sul fronte del trasporto locale. Però avremo ospite su questo anche chi rappresenta l'Agenzia Confederale dei Trasporti e dei Servizi, è il direttore generale della TM Milano, quindi della Municipalizzata dei Trasporti di Milano, però parla a nome dell'Agenzia Confederale, per capire quali sono anche le loro proposte, che sono più articolate, perché riguardano anche per esempio l'avvio delle attività commerciali, del terziario, dei servizi. È chiaro che tu potresti anche iniziare a dire i negozi chiudono alle 21 ma aprono alle 10, e questo vale anche per alcuni uffici, in modo che tu scaglioni ancora di più la presenza. Non possono essere solo gli studenti il problema del trasporto locale, perché sennò facciamo prima a dire che la vittima sacrificale per prima di questo Covid è sempre la scuola e gli studenti. Comunque, si può pensare anche a altre formule. Io posso anche immaginare che se devo fare un acquisto posso adattare il mio acquisto, magari se mi allunghi l'orario, come già, di apertura alle 21, posso farlo quando finisco l'orario di lavoro, non devo per forza arrivare al lavoro o chi lavora in quei negozi aprire la Claire alle 9, poi aprirla anche alle 10 se mi dai più ore. Insomma, un po' di fantasia su questo e anche di creatività, che non dovrebbe mancare a questo paese. Poi parleremo invece di un altro fronte, cioè il fronte imprese, per capire che cosa stia emergendo nelle aziende, dai manager soprattutto delle aziende, rispetto alle esigenze di formazione per una fase di ripartenza, ma anche per una fase di resistenza. Sappiamo che il digitale è la vera frontiera, ma non solo. Anche l'investimento nella capacità di quello che si chiama il change management, cioè la capacità di modificare i modelli, la capacità di rimettere in discussione un modello. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, le notizie di carattere generale, avete saputo, immagino, che la Banca Centrale Europea ieri ha lasciato la Federal Reserve, la Banca Centrale Americana, ha lasciato invariati i tassi di interesse e ha continuato una politica di acquisto di titoli di Stato, un po' come, anzi, esattamente come fa la Banca Centrale Europea. E quanto alle previsioni, ha rivisto per fortuna al rialzo le stime per il PIL americano nel 2021, perché quest'anno farà meno 2,5%, mentre 2021 farà più 4,2%, e anche il tasso di disoccupazione dovrà migliorare, dovrebbe scendere dal 6,7% di quest'anno al 5% dell'anno prossimo. Però nel frattempo oggi vi è un dato peggiore delle attese sulle richieste di sussidi di disoccupazione, che sono arrivati a 885.000, un dato peggiore delle attese. Fermi i tassi anche in Gran Bretagna, la Bank of England gli ha lasciati lo 0,1% e continuerà ad acquistare 895 miliardi di asset, cioè anche qui di titoli di Stato. Per quello che riguarda invece la Brexit, negoziatore europeo Michel Barnier ha detto che è possibile un accordo con il Regno Unito da qui a venerdì, mancano però da oggi a domani insomma. E c'è comunque un ultimatum dei presidenti del Parlamento europeo che ha detto noi siamo pronti a organizzare una sessione plenaria straordinaria verso la fine di dicembre qualora si raggiungesse un accordo entro domenica 20 dicembre. Però Londra è più pessimista dell'Unione Europea, dice il no deal, cioè il nessun accordo, resta lo scenario ancora più probabile. Quindi un'uscita dall'Unione Europea sul modello australiano resta ancora il risultato più probabile, perché quindi un rapporto commerciale che verrà regolato dalle norme della WTO, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Perché si fa un esempio, cioè l'uscita con il no deal, con nessun accordo, è il modello del rapporto che l'Europa ha con l'Australia. Invece c'è un altro modello, che è il modello del rapporto che l'Europa ha col Canada, che invece che sarebbe il modello in caso di accordo, cioè tutti gli accordi per dirimere tutto un insieme di questioni commerciali, dai marchi alla concorrenza sleale, e lo fai con il famoso accordo che abbiamo fatto con il Canada, che apporta un grosso vantaggio anche all'Italia sulla tutela dei marchi tipici del Made in Italy. Quindi questi sono i due estremi, modello canadese o modello australiano. Ora leggo una notizia perché siccome alcuni ascoltatori in maniera pervicace da settimane mi mandano messaggi sulla Svezia, la Svezia, la Svezia, allora non so, rivolgete i vostri elogi al modello svedese, elogi che non capisco, avendo la Svezia il tasso di mortalità e contagio più alto di tutta l'area, ma di gran lunga più alto rispetto a Danimarca, Finlandia, Norvegia. È inutile paragonare la Svezia alla Francia o l'Italia, sono geograficamente paesi diversi in cui per esempio non esiste la permanenza in famiglia come c'è in Italia. In Svezia a 18 anni tu vai a vivere da solo. Cosa voglio dire? Voglio dire che i nuclei familiari sono anche molto più piccoli, le possibilità di contagio dentro la famiglia, nonni che tengono i figli come c'è in Italia, sono molto molto più ridotte. Ma chi continua a elogiare il modello svedese lo spieghi al re di Svezia, Carlo XVI, che oggi ha accusato il governo svedese di aver fallito nella strategia anti-coronavirus. Faccio notare che il tasso di mortalità svedese è molto più alto appunto dei suoi vicini scandinavi, che invece il lockdown lo hanno fatto. Con poco più di 10 milioni di abitanti ha avuto 350.000 casi e 7.800 vittime, moltiplicato insomma sono un sesto degli italiani. Uno moltiplica 7.800 vittime per 6 e si accorge di quella che è la proporzione. Ma non è tanto solo sull'Italia, ripeto, che è un modello culturale e sociale diverso. Devi fare confronto a parità di abitanti, sono quasi simili, con Danimarca, Norvegia e Finlandia. Tra l'altro, ha detto il re svedese, penso che abbiamo fallito, abbiamo un gran numero di morti e questo è terribile. Tra l'altro il mese scorso il figlio del re e sua moglie sono risultati positivi. Ricorderete che non ha mai imposto un lockdown il governo svedese, ma si è limitato a emettere raccomandazioni senza sanzioni per chi non le esegue. Questo nel giorno in cui abbiamo scoperto che il presidente della Repubblica francese Macron è positivo, si isolerà per 7 giorni e continuerà a lavorare. Anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha deciso di mettersi in auto-isolamento dopo, perché anche se non era stretto contatto con, non è stato stretto contatto con Macron. Anche il premier spagnolo Pedro Sanchez si è messo in auto-isolamento fino al 24 dicembre dopo aver saputo della positività di Macron, con cui ha avuto una colazione di lavoro lunedì. E anche il premier del Lussemburgo, avendo avuto un incontro con Macron al vertice europeo, si è messo in auto-isolamento. Voi capite, cioè, se c'è una cosa che questo virus ha è che è assolutamente, passatemi in termine, democratico, nel senso che colpisce, l'abbiamo visto con Johnson, con Trump, con Bolsonaro, colpisce in maniera indistinta, non è un virus classista, anzi pensate appunto agli auto-isolamenti che si sono creati a livello di capi di governo e di Stato per la positività di Macron, un po' come avviene a noi comuni, diciamo, cittadini, quando viene a sapere che ha incontrato e si è venuto a contatto con una persona risultata positiva. Tra l'altro è interessante notare, e poi mi fermo, che un deputato tedesco, forte oppositore di Angela Merkel, dell'estrema destra tedesca, e forte oppositore delle misure di restrizione di Angela Merkel, lui non le vuole rispettare, infatti si presentava al Bundestag con la mascherina traforata, con il segno di protesta, è risultato positivo al Covid. I nostri migliori auguri. I dati italiani dell'INPS: a novembre ci sono state 372 milioni di ore di cassa integrazione, il 13% in più rispetto a ottobre, e quindi sono tornate a salire dopo che erano calate negli ultimi mesi. Nei primi 11 mesi dell'anno comunque la cassa integrazione ha superato i 4 miliardi di ore di lavoro, di cui 3 miliardi e 700 milioni con la causale Covid-19. Per dare un'idea di quanto si è fatto ricorso alla cassa integrazione, l'anno scorso, nello stesso periodo, furono autorizzate 276 milioni di ore, quest'anno 4 miliardi. Stiamo parlando di un aumento della cassa integrazione del 1.356%. Chiaramente vi è stato un crollo delle assunzioni nei primi 9 mesi dell'anno, meno 34%, vi sono state delle assunzioni, ci mancherebbe, ma in grosso calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ultima notizia: il Consiglio dei Ministri ha impugnato l'ordinanza della Val d'Aosta che vuole riaprire bar e ristoranti. Però io dico, la Val d'Aosta dovrebbe anche chiarirsi con il Veneto e con altre regioni, cioè se Zaia, che non mi sembra un grande fautore del lockdown, ha deciso di anticipare il governo, di chiudere tutto dalle 14 in poi, o meglio di non garantire gli spostamenti dalle 14 in poi, non so, in questo momento il problema è riaprire i bar e i ristoranti. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, meteo, pubblicità, e poi parliamo di scuola e trasporto locale. Focus Economia. Dunque, le scuole il 7 gennaio, ricordo il DPCM ha chiarito nel 3 dicembre, didattica in presenza garantita per il 75% degli studenti e il limite del 50% della portata dei mezzi di trasporto. Certo che bisognerà vedere l'andamento dei contagi, ma io penso che sia prioritario a questo punto riportare in classe 2 milioni di studenti delle superiori, a cui più tutti quelli ancora esclusi in base alle disposizioni regionali e anche delle medie e delle le medie inferiori, non solo le medie superiori, che vanno ad aggiungersi ai 5 milioni di studenti del primo ciclo. Ora, Eugenio Bruno del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Poi parleremo con chi rappresenta proprio il trasporto locale, ma vorrei capire, i tre temi mi sembrano, il primo tema mi sembra quello degli orari. Io ho detto prima, piuttosto che niente, meglio piuttosto, anche se si dovesse arrivare al 50% di presenza fisica invece che a 75, sempre meglio una settimana su due in presenza fisica che tutte le settimane nelle mura di casa con il tablet. È questo l'orientamento che sembra prevalere? Allora, non so se è l'orientamento che sembra prevalere, però è un tema sul tavolo. In tutte le ultime riunioni, soprattutto i dirigenti scolastici hanno sollecitato gli ex provveditori, gli uffici scolastici regionali, a scaglionare ancora di più gli ingressi, e la stessa esigenza è stata sollevata dalle aziende di trasporto. Il tema lo hai riassunto tu, perché da un lato si prevede di far tornare il 75% degli alunni e le superiori, dall'altro resta fermo però il limite del 50% nei mezzi, e quindi la soluzione la si può superare solo aumentando il numero di mezzi o di corse, ma probabilmente l'ospite successivo spiegherà che non è così semplice, oppure rivedendo quella previsione del 75%. Tutto questo di cui stiamo dibattendo adesso, in realtà lo abbiamo già affrontato quest'estate. Lo stesso film noi lo avevamo già visto a settembre, perché gli orari di ingresso scaglionati, la capienza dei mezzi pubblici, sono tutti temi che avevamo già affrontato e pensavamo di aver superato. Sì, ecco, su questo voglio capire una cosa, perché io già mi ero incavolato tantissimo a maggio-giugno. Poi ho visto, e qui lo devo dire, il governo perdere tempo con i banchi a rotelle, perché insomma ci siamo occupati dei banchi a rotelle, adesso ci sono i banchi con le rotelle, mancano gli studenti sopra i banchi e quindi a muovere le rotelle. Però, se ho ben capito Eugenio, uno dei problemi che c'è stato anche a settembre è che non tutte le scuole si erano dotate della didattica, diciamo, scaglionata negli ingressi. Alcune l'hanno fatto, altre no. Adesso è più stringente il vincolo, cioè, perché voglio dire, quando io chiedo fantasia, la chiedo a chi deve organizzare il trasporto locale, agli amministratori, magari appunto aprire i negozi un po' più tardi e tenerli aperti fino alle 21, magari farli aprire alle 10 per permettere, o alle 9 per non avere tutti il mondo dei servizi uguale. Però occorre un po' di fantasia anche nei dirigenti scolastici, al di là di accordi che si possono fare con altre strutture, ma voglio dire, lo scaglionamento può avere anche qualche elemento di fantasia, oppure c'è un problema grosso come una casa, ossia la contrarietà dei sindacati e di parte dei docenti a lavorare il pomeriggio? Allora, la contrarietà palese è quella dei dirigenti scolastici, che in più occasioni hanno detto che è complicato scaglionare gli ingressi oltre una certa ora. Si parla di le ipotesi che sono sul tavolo in questi ultimi giorni parlano di due turni a distanza di 90 minuti l'uno dall'altro, almeno, sia per gli ingressi che per le uscite. Quindi la risposta in qualche modo di maniera e di scuola è che così facendo si rischia di arrivare al pomeriggio inoltrato, e questa è la posizione dei dirigenti scolastici. È chiaro però che questa posizione si basa su un malcontento più diffuso, probabilmente della categoria. È molto simile allo stesso film che abbiamo vissuto in primavera, quando si parlava di ricordi di recuperare l'anno scolastico, certo, magari a giugno, dopodiché le scuole si è scelto di non riaprirle più, e quindi ogni qualvolta provi a modificare quella che è una consuetudine, e nella scuola italiana ti incontri con resistenza. Però non è che gli insegnanti, che in molti casi hanno fatto un egregio lavoro in questi mesi, però sono anche pubblico impiego, per fortuna non hanno avuto un disoccupato né un cassa integrato. Voglio dire, occorre anche chiedere a loro uno sforzo. Io so che per esempio gli istituti che hanno maggiore margine di manovra, penso a quelli privati, ci sono scaglionamenti che riguardano anche le lezioni al pomeriggio, che poi non dico che sia facile. Io ho fatto la scuola al pomeriggio quando ero alle elementari, perché eravamo i baby boomers e non c'erano abbastanza aule, mi ricordo benissimo, insomma, che non era la stessa cosa avere un orario normale o fare una settimana al pomeriggio, una settimana la mattina. Ci sono problemi anche nel pranzo, quello che volete, ma un po' di fantasia, un po' di sacrificio per tutti, perché sennò non vorrei nemmeno io rivedere quello che abbiamo visto a giugno, l'opposizione, no, dobbiamo fare gli esami, correggere i compiti, ma quando mai, dai, per favore, pensate ai ragazzi in primo luogo e non a voi. L'altro problema riguarda l'edilizia scolastica, nel senso che ho visto che il ministro Azzolini ha detto: abbiamo un altro miliardo e mezzo di investimenti nell'edilizia scolastica, dopo aver già sbloccato 2 miliardi per quest'anno, per un totale di 2057 interventi, 5500 indagini diagnostiche sui solai, a cui vanno aggiunti 460 milioni di euro di edilizia leggera dati agli enti locali in fase di emergenza, e 330 milioni per l'adattamento degli spazi interni e esterni. Ora, Lazzolina ha sicuramente ragione che il problema della scuola ce lo trasciniamo da 20 anni, un po' come la medicina sul territorio, non è che mai tanti investimenti erano stati fatti. Il presidente del CTS, Agostino Miozzo, ha detto il 7 gennaio: dobbiamo riaprire, potremo farlo se saremo prudenti e attenti a Natale e Capodanno, per poi tornare alla normalità l'anno prossimo. Tema dell'edilizia, Eugenio. L'edilizia è il tema ed è un tema ultra decennale. È vero che c'è questo miliardo e mezzo in più in manovra, così come i numeri sui cantieri li prendiamo per buoni. Fatto sta che la pandemia si è innestata su una situazione che era drammatica, perché le nostre scuole sono vecchie, sono insicure, noi siamo un paese sismico, ad alto rischio sismico, e abbiamo delle scuole che sono per larga parte non sono ancora antisismiche. Quindi chiaramente non si poteva risolvere tutto in 3 mesi. C'era un'altra norma che era stata inserita in manovra, che era dare poteri, superpoteri, ai sindaci e ai presidenti di provincia, che sono poi i proprietari delle scuole, i dirigenti scolastici le gestiscono, ma l'ente proprietario è il comune o la provincia. Quella norma, che sembra aver dato buoni frutti, in realtà poi è decaduta, perché è stata in pratica, per estraneità di materia, è uscita dalla legge di bilancio. Adesso forse rientrerà nel mille proroghe, e quindi faccio questo esempio, che magari sembra tecnico, è perché nella scuola si concentrano una serie di problemi che riguardano l'intera pubblica amministrazione italiana, che però ci toccano da vicino, perché gli utenti in questo caso sono i nostri figli, sono i nostri nipoti, ma oltre che figli, sono le future generazioni di questo paese. Io potrei anche dire, magari uno non ha figli, oppure li ha grandi, li ha già. No, qui stiamo parlando delle future generazioni. E poi io non accetto che l'Italia sia l'unico paese che non riesce a riaprire, almeno parzialmente, le scuole superiori, e anche le medie, le scuole medie superiori, ma in parte anche le medie inferiori, perché ricordo che nelle aree rosse fino a poco tempo fa, e anche quando diventano arancioni, poi le regioni non vogliono riaprire, non si sono attrezzate e quant'altro, perché c'è anche la responsabilità delle regioni. Questo ci porta direttamente al tema del trasporto locale. Eugenio, se vuoi restare in collegamento con noi, a me fa più che piacere, perché questa mattina è stato ospite di Radio 24 Riccardo Di Stefano, che è il presidente dei giovani imprenditori, ospite 24 mattina di Confindustria. Ha detto: a me sembra che il nodo trasporti, per quello che riguarda la scuola, sia ancora irrisolto. Se noi siamo la nazione che sta tenendo le scuole chiuse più a lungo in assoluto, e questa situazione indefinita non sta che facendo del male alla generazione più importante. Quest'estate bisognava creare le condizioni per la riapertura, in particolare a partire dai trasporti, prima ancora che delle polemiche sulle rotelle dei banchi. Oggi questo potenziamento sui trasporti, che pare essere il nodo per cui non si possano riaprire, resta un nodo completamente irrisolto, malgrado se ne parli da mesi e malgrado siano stati stanziati i fondi. Non ci approcciamo con fiducia a questa riapertura, malgrado l'Italia abbia bisogno delle proprie scuole, delle scuole aperte, uno perché in questi anni abbiamo registrato purtroppo ad un calo di competenze da parte dei nostri giovani, e poi perché la DAD, quindi la didattica a distanza, sta paradossalmente accentuando il divario tra nord e sud, tra centro e periferie, e tra diverse fasce di reddito della popolazione. Perché io condivido, ma l'ho detto per tutte queste settimane e mesi, ogni singola parola. Aggiungo anche che appunto il livello di parificazione sociale che deve fare la scuola, cioè di cercare di eliminare i vantaggi a seconda di quale famiglia cresce, o gli svantaggi a seconda di quale famiglia cresce, viene completamente negato dalla didattica a distanza. Poi c'è il tema degli alunni disabili. Voi immaginate cosa vuol dire avere un insegnante di sostegno a distanza? È quasi un ossimoro. Se è a sostegno è vicino. Quindi, però, o perché non votano, o perché fanno meno pressione, o perché poi c'è una parte degli insegnanti, dei sindacati, che invece tutto sommato gli va bene così. Mi sembra che su questo ci sia poca polemica. Ho visto un paese parlare per una settimana degli impianti da sci. Questo è il paese ogni tanto che emerge. I presidenti delle regioni, i presidenti delle province autonome, tutti. Il dramma nazionale era non poter fare la settimana bianca sotto Natale. Ho capito che ci lavorano i maestri di sci, gli albergatori, gli impianti, ma lavorano anche gli albergatori e i ristoratori delle altre regioni, che sono in ginocchio per il turismo straniero assente da mesi. No, il problema era l'impianto da sci, e anche i governatori locali delle volte. Questo lo dico anche perché c'è qualcuno che continua a scrivermi su Zaia, ma io ho elogiato Zaia per alcune cose. Adesso Zaia chiaramente ha una situazione che gli è sfuggita di mano, e infatti non ha neanche aspettato il governo per le nuove procedure, è dato una restrizione direttamente lui. Questo è palese, non so come dirti, ma il gioco dei governatori, non in questo caso Zaia, ma anche altri, che sono sempre pronti a dire no, è sbagliato chiudere, e poi però se gli scoppiano i casi chiedono al governo in ginocchio di fare loro le chiusure, l'abbiamo già visto un mese e mezzo fa. tutti bravi a criticare e nessuno bravo a proporre. Poi quando ti scoppiano i focolai aspetti che arrivi il DPCM, è troppo comodo così. Però andiamo con Arrigo Giana, presidente di Agens, Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi del Sistema di Confindustria, nonché direttore generale dell'ATM di Milano, che è la Municipalità dei Trasporti di Milano. Buonasera Giana. Buonasera a lei. Ecco, lei parla in quanto presidente. Allora, il DPCM del 3 dicembre, oltre che chiedere che dal 7 gennaio torni la didattica in presenza del 75%, imponeva un limite del 50% sui mezzi di trasporto come riempimento, contro l'80% che vigeva prima della seconda ondata. Ora, noi sappiamo che proprio tema scuole, scaglionamenti, la domanda si concentra nella fascia 7-9 di mattina, soprattutto nei grandi centri urbani. È pensabile arrivare al 50%? E se non è pensabile in questo momento, che cosa bisogna fare urgentemente? Sì, esatto. In questo momento noi stiamo viaggiando con un limite di capienza che è al 50% e che è incompatibile con una riapertura delle attività produttive, delle attività commerciali, perché di fatto il limite ci pone a una capienza tale per cui siamo già vicini alla saturazione oggi. Quindi in una logica in cui, se l'apertura delle scuole porterà ulteriore traffico, il sistema, e mi ricollego a quello che sentivo prima della diretta, non è espandibile purtroppo. Noi abbiamo un sistema che è estremamente rigido in termini di offerta, perché è legato a sistemi di infrastrutture o a tempi di recupero dei veicoli e dei mezzi che non sono stati compatibili con l'emergenza che abbiamo vissuto. Quindi, cioè, lei mi sta dicendo non è possibile aumentare le corse della metropolitana, le corse degli autobus, le corse dei tram, perché? Perché di fatto su tutta la parte infrastrutturale, quindi metropolitane, tram e quant'altro, noi abbiamo dei sistemi che già oggi viaggiano al massimo, perché sono legati alla presenza e alla numerosità dei treni, ma soprattutto a sistemi di sicurezza che garantiscono determinate frequenze che non sono incrementabili nelle ore di punta. Noi stiamo già viaggiando in sistemi complessivi, sia metropolitane che le ferrovie regionali, al massimo della potenza e della capacità dei sistemi di segnalamento e quindi dei sistemi di sicurezza. Quindi andare oltre è impossibile. Noi oggi stiamo facendo uno sforzo enorme come aziende di trasporto per implementare, per riuscire ad incrementare l'offerta laddove è possibile. E intendo nelle aree e sulle linee, diciamo, automobilistiche gestite con autobus, dove stiamo cercando di recuperare con uno sforzo enorme il massimo possibile di autobus. Autobus che però non nascono, perché sono gli autobus turistici per intenderci, non nascono per fare servizio di trasporto pubblico, quindi hanno una possibilità limitata di essere utilizzati sulle linee di forza dei grandi centri urbani. E consideri che lo sforzo che sta facendo tutte le aziende urbane porterà ad un incremento in termini percentuali degli autobus, che è di qualche punto percentuale sulla massa di mezzi che oggi utilizziamo. Un autobus turistico porta 50 persone, al 50% sono 25, noi faremo il massimo dello sforzo possibile, ma la punta del mattino è, come dire, si crea fisiologicamente non per la presenza degli studenti, che rappresentano in situazione di normalità il 10% dei nostri passeggeri. La punta del mattino si crea perché c'è una concentrazione di altre tipologie di passeggeri, che sono i classici pendolari che normalmente viaggiano per questioni di lavoro. Quindi qui c'è da capire una cosa, nel senso che tu rischi di tenere a casa gli studenti delle superiori, unico paese in Europa che li tiene così tanto, perché non devi tenere aperti gli esercizi commerciali. Ora, io non voglio arrivare a una lotta tra il negozio aperto o lo studente a casa o lo studente in presenza del negozio chiuso. Si può trovare un po' di fantasia. Allora, visto che lei dice che tra le 7 e le 9 si concentra la punta, che gli studenti non sono il problema principale, ma voi cosa suggerite? Di valutare bene gli orari delle attività commerciali del terziario, cioè dei servizi? Assolutamente, assolutamente. L'unica vera soluzione è per poter garantire agli studenti, cosa che tutti quanti siamo impegnati a fare ovviamente, il necessario, me lo faccio definire, spazio sui nostri mezzi, dobbiamo diluire quella punta e scaglionare, rimandare a fasce meno affollate altre tipologie di passeggeri. Noi abbiamo, come dire, sui tavoli prefettizi presso i quali stiamo lavorando con tutte le nostre aziende, stiamo proponendo esattamente questo, cioè Sì, scaglioniamo le scuole e creiamo almeno due scaglioni, uno alle 8 e uno alle 9 e mezza delle entrate delle scuole, ma soprattutto spostiamo l'apertura dei negozi dopo le 10, incentiviamo lo smart working ai massimi livelli ove possibile, cerchiamo di scaglionare eventualmente l'ingresso degli uffici, degli studi professionali, delle banche dopo le 10, dove la nostra capacità e l'offerta residua, la capacità residua è molto più alta, perché altrimenti il collo di bottiglia non è espandibile, non riusciamo a mettere, come dire, un litro d'acqua in una bottiglia da mezzo litro, non c'è possibilità fisica. Ecco, visto che ho ancora in collegamento, perché c'è ancora in collegamento il collega del Sole Eugenio Bruno, Eugenio, chiederei a te di chiudere su questo, perché chiaramente da quello che ti risulta c'è un dialogo anche sulla parte delle licenze, quindi dell'apertura dei negozi, perché Gianna diceva, guardate che non è il problema dei problemi, il numero di studenti, è che se i negozi aprono a quell'ora e i servizi aprono a quell'ora, io non ci troverei niente di male nell'andare al negozio a prendere un acquisto alle 10:30 invece che alle 9:30. Comunque, Eugenio. Allora, una delle fortune di questo, diciamo, di questa fase sul tema scuola è che sono tanti gli attori coinvolti. Uno di questi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aveva proposto proprio questo la settimana scorsa in una circolare mandata a tutti i prefetti, quindi che in teoria è un documento che dovrebbe essere su tutti i tavoli di confronto, suggeriva da un lato di rinviare, di scaglionare almeno di un'ora anche gli ingressi delle università per le matricole, che sono, io diciamo anche lì sono le uni sì, che hanno continuato il corso. E dall'altro lato proponeva di spostare l'apertura dei negozi alle, e anche delle attività produttive alle 10. Questo nei grandi centri urbani. Sì, nei grandi centri urbani è chiaro che la criticità è soprattutto lì. Adesso, dimmi. Altro suggerimento, no, così al volo, era quello di, che non so se è un'ipotesi praticabile, di spostare le linee, quelle a bassa domanda, i mezzi adoperati sulle linee a bassa domanda, spostarli su delle tratte più trafficate. Adesso non so se anche questa è un'operazione non fattibile per i motivi che abbiamo sentito prima. Però accolgo la tua domanda e risponderà Gianna dopo il GR24. Eugenio, ovviamente tu resta con noi se vuoi, ma se devi andare ti saluto adesso, perché mi interessa capire se si può anche rimodulare la disponibilità dei mezzi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Abili, esperti, efficienti. In una parola, professionisti. Sono i personal shopper del caffè, il cuore di NIMS. La loro missione? Portare nelle case degli italiani l'eccellenza del caffè Lavazza, offrendo un'esperienza unica e personalizzata. Se credi nelle relazioni personali, prima ancora che in quelle professionali, se vuoi essere il volto della nostra azienda, entra a far parte della squadra Lavazza NIMS. Contattaci all'840 010 010 o visita il sito nims.it. Ormai sai usare la fatturazione elettronica. Crei, invii e ricevi fatture ogni giorno. Ma ti sei accorto di spendere troppo? Passa alla fatturazione elettronica di Aruba. Puoi importare da altri sistemi i tuoi clienti, i prodotti, i servizi e le fatture in una soluzione completa e conveniente. Risparmia con la fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Su aruba.it. Ciao Lucky, oggi corsa al parco e poi un po' di spesa. Hai ragione, devo ricordarmi anche i tuoi patè. Ma sì, i patè Monge Monoprotein, cotti a vapore e 100% made in Italy. I patè Monge Monoprotein sono formulati grain free e con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Sono senza coloranti e conservanti artificiali aggiunti e no cruelty test. Monge, il pet food che parla chiaro. Gli attacchi informatici possono nuocere gravemente alle imprese. Scopri il tuo livello di sicurezza. Richiedi una valutazione immediata sul sito sanmarcoinformatica.com. Che programmi avete il weekend? Io ne ho due con voi. Obiettivo Salute Weekend a mezzogiorno al sabato per fare un po' il punto della settimana. E poi alla domenica. Alle 12 la bufala in tavola, perché chi mangia bene si nutre meglio, è fondamentale. Non mancate allora a Radio 24, Nicoletta Carbone vi aspetta sabato alle 12, Obiettivo Salute Weekend, domenica la bufala in tavola. Ci conto. Ogni storia ha nel mezzo un confine, una linea da varcare oltre la quale la vita cambia. A Linee d'Ombra raccontiamo proprio queste storie, le vostre. Guardatevi alle spalle, cercate quella linea che avete oltrepassato e vi ha reso chi siete ora. Una linea d'ombra che vi ha fatto scoprire parti nuove e diverse di voi. Piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Storie di infanzia diventata età adulta, di sport che ci ha trasformato, di passioni che ci hanno plasmato, ma anche piccoli episodi quotidiani che hanno tracciato un prima e un dopo. Se volete raccontarceli, scrivete un paio di pagine e mandatecele a lineedombra@radio24.it. Se volete ascoltarle, dal lunedì al venerdì, alle 15, solo su Radio 24. Io sono Matteo Caccia e le storie le racconto per voi. Focus Economia. Minuti. Allora, per concludere sul tema dei trasporti, dopo che il presidente dell'Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi, nonché direttore generale dell'ATM di Milano, Arrigo Giana, ci ha chiarito che il problema non sono gli studenti delle scuole medie superiori, anche in parte quelle delle scuole medie inferiori, ma il picco di attività tra le 7 e le, 20, e le 9 di mattina, se ho ben capito, ipotizzando di spostare già alle 10 l'apertura per esempio dei negozi e dei servizi. C'era un altro tema che aveva sollevato Eugenio Bruno, cioè si è anche valutato nei vari tavoli ministeriali di poter utilizzare le linee meno congestionate, meno utilizzate, per aumentare la dotazione di quelle che diventano più congestionate negli orari di punta. Secondo lei è percorribile? Sì, assolutamente, è assolutamente percorribile ed è quello che tutte le aziende dei grandi centri urbani stanno facendo. Però è sempre la dimensione dell'intervento che riusciamo a fare. Che, allora, lei consideri che su un'area come quella di Milano riusciremo ad impiegare 150 autobus turistici che hanno una capienza media ognuno di 25 posti. Lei consideri che gli studenti, solo gli studenti a Milano sono più di 60.000. Che oggi senza le scuole sulla nostra rete viaggiano 800.000 persone, normalmente 2 milioni, oggi 800.000. Capisce che i numeri sono questi, sono enormi. Pensare che l'autobus turistico possa essere una soluzione è sicuramente un aiuto. Lo stiamo facendo e cerchiamo di farlo al massimo delle possibilità e dell'offerta del mercato, ovviamente. Però capisce che i numeri sono talmente diversi che è sì un aiuto, ma è un aiuto limitato, ma non può che essere così. Per questo io sottolineo il tema della diluizione degli orari di punta, che è la vera soluzione. Che giriamo chiaramente al governo, ma ci diceva anche Eugenio Bruno che questo è stato valutato, lei ce lo confermava, nei tavoli con le prefetture che avete in tutta Italia. Poi questo riguarda, ripeto, soprattutto i grandi centri urbani. È ovvio che la scuola media inferiore o anche la scuola media superiore in un piccolo centro ha minore congestione perché mancano gli uffici, ci sono meno attività commerciali, quindi probabilmente riesce a reggere di più. Dunque, mi scrive un'ascoltatrice, immagino, lei non ha parenti o conoscenti insegnanti. Guardi, già il primo errore, perché mia madre adesso in pensione mi ha fatto l'insegnante, però noi lavoravamo già molto prima e ci siamo già adattati a lavorare in questa situazione di emergenza. Sarebbe un po' come chiedere a lei e ai suoi colleghi di cambiare orari e lavorare di notte. Le andrebbe bene? Allora, guardi, due cose. Nessuno qua sta chiedendo di lavorare di notte agli insegnanti. Ci si interrogava sul perché della resistenza dei sindacati e degli insegnanti nell'estendere il pomeriggio, così come nel riaprire le scuole a giugno o nello spostare di un mese in avanti la scadenza dell'anno scolastico. L'esempio di Radio 24, mi dispiace, il secondo errore che lei commette, perché questa radio anche prima del Covid lavorava già, come lei sa molto bene, con turni dalle 5:30 a mezzanotte, sabati e domeniche, Natali, Capodanno e festività incluse, per cui onestamente qui la flessibilità sui turni ce l'abbiamo e ne so qualcosa perché li devo gestire anch'io, per cui attenta agli esempi. Il punto è che non si può neanche immaginare che gli insegnanti non modifichino in nulla, diciamo, gli orari. Abbiamo i negozi che adesso aprono fino alle 21, forse anche gli insegnanti possono immaginare, in un periodo eccezionale che non durerà per sempre, di allungare la presenza o di modificare la loro presenza. So che ci sono gli insegnanti che hanno i figli e mi stanno scrivendo come, a chi lascio i figli, ma questo è il problema che hanno anche altre categorie produttive. A chi lascio i figli? Un'infermiera, un medico, anche uomo, ma in particolare donne, una giornalista, visto che lei la citava, di Radio 24. I figli ce li abbiamo tutti, non è che c'erano solo gli insegnanti. Allora, dai, grazie anche a Rigogiana, quindi vedremo se questi suggerimenti verranno accettati. Dico subito due cose. La prima è che trovo abbastanza inconcepibile il silenzio, oltre che sul recovery plan, adesso anche su cosa capiterà nelle festività, ho visto che il governo forse riaggiorna stasera o domani mattina, anche sul tema della scuola, cioè diteci a che punto siete. Siete dell'idea, siete orientati a chiedere l'apertura dei negozi alle 10, dilazionare gli uffici in modo da permettere ai ragazzi di tornare a scuola? Un negozio non ci perde molto se apre dalle 10 alle 21, un ragazzo che non va a scuola non va a scuola e basta, ok? Però fateci sapere qualcosa, perché sennò poi diventa difficile non dire che state un attimo andando così alla giornata, eh? Lo dico sapendo che ho cercato di mantenere la maggiore obiettività possibile sul governo Conte. Secondo risposta la devo chi continua a scrivere, stavo dicendo un'altra cosa sulla Svezia. Allora, è inutile fare i paragoni con i 7.800 morti svedesi moltiplicandoli per 6, che sono meno di quelli italiani. Ho detto che la Svezia ha un sistema sociale, e andate a verificare, completamente diverso da quello italiano. Non ci sono nonni che tengono bambini, non ci sono famiglie in cui abitano i nonni, i ragazzi vanno via di casa, e quindi questo crea un distanziamento sociale già da solo, oltre che essere un paese leggermente diverso quanto a densità abitativa rispetto all'Italia. Ma se prendiamo paesi simili per cultura, quindi sociologicamente simili, e in parte anche per densità demografica, mi riferisco alla Danimarca e alla Norvegia, che hanno la metà degli abitanti della Svezia, però mentre la Svezia ha avuto 7.800 morti, la Norvegia ha avuto ad ora 402 morti, la Danimarca 975, quindi sono la metà come abitanti, ma hanno avuto in un caso un nono dei morti, nell'altro caso addirittura un diciottesimo dei morti della Svezia, e hanno applicato il lockdown. Se poi queste cifre non bastano, ripeto, trasferitevi in Svezia, parlate con Re, che oggi ha detto che la gestione svedese è stata fallimentare rispetto a quello che è avvenuto nei paesi vicini alla Svezia, Danimarca e Norvegia. Allora, veniamo all'ultimo aspetto che vorrei trattare. Do la chiusura di borsa, scusatemi, non l'ho data. Se riesco a riprendere la do, e se non riesco a riprendere non la do, la chiusura di borsa. Allora, in attesa che si carichi il sistema, non capisco perché non si stia caricando. Vabbè, troveremo un modo anche per dare la borsa tra qualche minuto. Vorrei spostare adesso l'attenzione da quello che riguarda i dati di gli elementi, diciamo, sociali, quindi scuola, trasporti e quant'altro, alle imprese. Perché lo dico? Perché oggi il CUA Business School ha condotto un'indagine su qual è la percezione dei manager rispetto alle esigenze formative in questa fase di ripartenza. Qual è il ragionamento? Sostanzialmente, prima o poi, grazie ai vaccini, speriamo, e altre cure, l'economia tornerà a ripartire, a girare, ci auguriamo il più possibile a pieni giri, però è chiaro che il mondo non sarà più quello di prima, e che comunque tu non puoi far finta che non ci sia stato un elemento, diciamo, come quello disruptive, in qualche modo, insomma, di rottura come quello del Covid. E allora sto chiesto ai manager che tipo di esigenze formative, di che tipo di esigenze formative sentono la necessità per la loro forza lavoro, e quindi sia la parte, diciamo, manageriale, ma anche tutta l'organizzazione, diciamo, del lavoro. È in collegamento con noi il presidente di Qua Business School e vice presidente di Federmeccanica con delega all'educazione, Federico Visentin. Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Allora, che cosa emerge dalla richiesta? Cioè, immaginiamo che questa sia una richiesta che voi fate ai manager per dire come ti stai attrezzando non solo a gestire il presente, ma soprattutto a gestire la ripartenza. Però intanto dobbiamo dire che non è che ci sono idee chiarissime, no? Perché la cosa più classica, cioè più evidente, è che c'è moltissima incertezza. Già aveva creato incertezza tutta la dinamica prima del Covid, tutta la dinamica sul 4.0, la rimessa in discussione dei business model, e dove andremo a finire, quanto riusciremo a digitalizzare, come riusciremo a fare a cambiare modello. E adesso su quell'incertezza, che non era ancora risolta, è partita questa e sta mettendo in discussione tante realtà, che sta chiedendosi un po' a fronte anche dei settori che abbiamo visto soffrire molto di più, e altri invece che in realtà hanno determinato opportunità importanti anche di crescita. Quindi c'è un grande ripensamento. Quindi innanzitutto questo troviamo, e questo lo troviamo come pressione nel lato pratico, anche a riaprire le scuole in presenza, perché da remoto i nostri corsi non sono la stessa cosa, soprattutto non riescano a prevedere questa possibilità di scambi fra executive, che è la parte dove si scambia più idee, no? Questo in senso generale. Poi in realtà nel momento in cui andiamo a chiarire comunque quali sono le aree di maggior interesse, e allora qui sta prevalendo, devo dire, una richiesta a capire i modelli di crescita, perché si è capiti che piccoli è veramente superato, e è molto più difficile riuscire anche in periodi di difficoltà a sostenere. E una crescita fatta in un certo modo, ovviamente in maniera intelligente, potrebbe determinare la maniera per aiutare a uscire. Qui il problema non è tanto e solo sul corporate finance, che tra l'altro anche come scuola abbiamo sempre supportato e abbiamo sempre strutturato, insomma è una formazione, mi lasci dire, classica, no? Anche se gli strumenti sono sempre in evoluzione, però insomma voglio dire, non c'è niente di particolarmente nuovo. Il tema che ci si scontra è poi come impostare questi meccanismi di aggregazione, come guidare un processo di aggregazione, perché qui l'aggregazione viene spesso trasformata in una cessione delle proprie aziende ai grandi gruppi internazionali, no? Mentre il fenomeno contrario, cioè quello di essere finalmente noi a guidare processi di aggregazione, di acquisizione, anche esteri, no? E prevede cosa? Prevede una capacità di gestire le governance, non solo una capacità di leggere il modello di business, ma anche di gestire queste governance, di gestire questi processi di M&A, di riuscire anche a capire, ma anche di aprire il capitale, che è un'altra apertura che le piccole e medie imprese, insomma, aprire proprio capitale di famiglia, molto spesso insomma sono bloccati. Allora, come gestire tutto questo con coerenza, con capacità, con anche un po' di visione, questo oggi ci viene richiesto in maniera importante. Ecco, da quello che lei ci sta dicendo però, Visentin, c'è un'incertezza generale, questo lo posso capire, perché è terra incognita, è brutto citare il mio libro, ma insomma per tutti, non è solo per i manager. Faccio notare una cosa, che lei ci ha detto, vabbè, c'è un'incertezza complessiva, ma quando si va nel dettaglio c'è la consapevolezza che le dimensioni, io dico insomma più che le dimensioni, è anche la profittabilità della tua azienda, cioè tu puoi essere piccolo o nano, sei piccolo se le tue dimensioni sono corrette e quindi sei nella catena del valore, come si chiama, sei fornitore, subfornitore a monte o a valle di un gruppo che produce valore, e tu hai le dimensioni corrette, anche se hai 40 dipendenti. Sei nano anche se ne hai 500 dipendenti, se sei da solo e il tuo concorrente ne ha 5.000, magari all'estero. Però il fatto che la maggior parte di chi voi avete interrogato ha detto sì, voglio, ho capito che devo cambiare, non pone poi una domanda molto forte in quello che si chiama il change management, cioè manager che abbiano la capacità di reinventare o di modificare seriamente il business. Beh, questo senz'altro, questo voglio dire, l'approccio al cambiamento, diciamo che chi viene normalmente però già si approccia alle scuole come la nostra, parte già da avendo sbarcato, che questa è un'esigenza che è superata, cioè non è che vengono a capire come affrontare quel tema. Diciamo che se poi vediamo il ruolo di responsabilità sociale, che è una scuola anche come la nostra, io sempre lo cito, cioè nel senso di capacità e strumento per poter far crescere la qualità delle nostre aziende nei territori, beh, allora dovremmo anche riuscire, sì, sono d'accordo con lei, a promuovere per quelle aziende che ritengono di essere tutti a posto, di non aver bisogno di affrontare i cambiamenti, di non capire neanche come farlo, a magari fare un passo all'interno di queste nostre strutture, e si renderanno conto immediatamente di quanto questo sia prevalente. Sì, sì, questo che lei dice, l'atteggiamento al cambiamento, l'atteggiamento positivo, è uscire dalla propria comfort zone, non pensare sempre che le cose che si sono conquistate perché siamo a festeggiare i 50 anni di attività e siamo tutti contenti possa proseguire per sempre. Ma vede, il tema della dimensione che dicevo prima è un tema che in realtà è marcato, perché anche chi prima riteneva di aver trovato proprio in questo senso, no, la dimensione corretta, no, in una supply chain, come diceva, oppure oggi si rende conto che la dimensione blocca cosa? Blocca anche capacità di investimenti in ricerca, tanto per dire. L'altra area grande, che è quella della digitalizzazione, no? Prendiamo quella, che è un'altra, ovviamente, subito dopo nel ranking arriva lì a dire no e pretendere di capirne di più, che non è solamente sapere usare tutti quanti Zoom o sapere usare queste piattaforme, perché anche quello, noi essere in grado di capire anche là l'evoluzione del business, come potrà essere grazie all'aiuto di digital. Bene, anche questo passaggio qui, di dire, comporta un approccio a dell'investimento, cioè bisogna sicuramente ci metterci del denaro, e torniamo da capo che se io devo mettere del denaro lo metto normalmente nel mio core business, perché so calcolare anche un fuorientro in qualche modo, no? Un ritorno dell'investimento. Se invece lo devo fare sulle cose così nuove, come una fonte, so quando iniziano, so quando finiscono, so quanto è abbastanza, e qui le dimensioni, torniamo lì, determinano lo spazio per poter avere anche destinare quelle risorse minime, quella massa critica, no? Che permette di fare questi investimenti. Quindi anche la ricerca e sviluppo è aiutata nel momento in cui, quando si parla della statistica del 5% del mio fatturato in ricerca e sviluppo, se c'hai 10 milioni di fatturato, che cosa sono? Sì, cioè, quello no, questo... il fatturato è un'altra cosa. Cioè, sì, certo, perché il 5% è un investimento in ricerca e sviluppo, che è una bella quota, però poi dipende il 5% di che cosa, perché se il 100 sono 10 milioni di euro, ci fai poco col 5% in ricerca e sviluppo. Quindi l'alternativa, però, lo sa meglio di me, presente, sarebbe anche creare delle formule, diciamo, di condivisione degli spesi di ricerca e sviluppo. L'ha fatto nella Motor Valley, l'hanno fatto vari marchi, penso Dallara, Ferrari, Maserati, Lamborghini, hanno creato un corso di laurea pagandolo tutti assieme per in ingegneria. Cioè, si può anche pensare, però occorre un modello cooperativo lì, dire va bene, non abbiamo le forze, però se l'alternativa è fondermi o farmi comprare, magari stabiliamo anche dei centri di ricerca condivisi in cui ognuno mette una quota e lavoriamo anche con questo. Però insomma, è chiaro che da qualche parte devi rinunciare a qualcosa, o rinunci perché condividi la ricerca con anche eventualmente con i tuoi concorrenti, oppure rinunci al controllo totale e fai entrare dell'equity, magari in private equity, oppure rinunci perché fai entrare un altro socio o ti fondi con un altro socio. Grazie, e poi la riavremo ospite, perché poi voglio capire, insomma, come cambia come cambiano le funzioni anche aziendali. Tra l'altro, se ho ben capito, per chi ha risposto, la funzione aziendale che cambierà di più è la parte commerciale, ha detto, le vendite? Diciamo che quella è quella che preoccupa un po' tutti, però, no? Perché alla fine si parte dalle vendite, quindi la preoccupazione maggiore è lì, no? Questo è anche determinato. È sempre un di cui, però, ecco, di tutto il contesto, come si diceva, no? Un cambiamento che si capisce che è inevitabile, anzi meglio, qualcuno dice devo farlo prima degli altri, e quindi partono ovviamente dai mercati. Quindi in questo senso va letto questa richiesta anche di lavorare sulla forza vendita. Allora, grazie anche al presidente del CUOA, appunto, per averci raccontato quali sono le riflessioni che si stanno facendo in questo momento, chiaramente provvisore. Grazie Federico Visentin. La borsa arriva tra pochissimi minuti, comunque ha chiuso Milano con più 0,12%, Parigi invariata, Francoforte più 0,70%, Londra meno 0,30%. Noi ci risentiamo domani in attesa di sapere quali saranno le nuove restrizioni, torna la poco invidiabile classifica.